secolo XX. La mia breve introduzione è terminata. Adesso devo dare la parola ai relatori di oggi. Il convegno ha come titolo generale Filosofia e Teologia del Paradosso. Questa prima sessione si chiama Il Paradosso tra Teologia e Filosofia. Per primo prenderà la parola il professor Giorgio Penzo dell'Università di Padova sul tema Il Paradosso come verità esistenziale. Seguirà il professor Bruno Forte della Facoltà Teologica di Napoli fare teologia dopo Kierkegaard. Sono ora costretto a leggere la lettera che Massimo Cacciari ha scritto per scusare la propria assenza. Gentili organizzatori, purtroppo si sono verificate le circostanze che temevo. Il 4 dicembre prossimo, la lettera di qualche giorno fa, inderogabili impegni amministrativi, approvazione del bilancio del piano regolatore del centro storico mi impediranno di essere con voi. Ne sono sinceramente addolorato. Il vostro convegno rivestiva per me il massimo interesse e ne sono addolorato anche per non poter stare un poco insieme a tanti cari amici come Bruno Forte e Giorgio Penzo. Prego di scusarmi anche con loro. Con gli auguri più vivi per la riuscita del convegno, Massimo Cacciari. Ora do la parola al professor Penzo. Un ringraziamento cordiale a Monsignor Roger e pure al nostro direttore della casa editrice Minelli. Ecco. Di rigore. Sì. Va bene. Sì. Va bene, grazie. Si sente adesso, sì. Allora, io farei ho fatto alcune riflessioni. Prima di aprire queste riflessioni, scrivo due parole per qualcuno che forse non è troppo dentro nei problemi di Kierkegaard. Allora, Kierkegaard 1813-1855. La sua vita e le sue opere cadono in un periodo aureo per la cultura danese. Si incontrano nomi di grande prestigio a livello europeo nella poesia, nella scienza religiosa e nella letteratura. Unita con la Germania del Nord, mediante una fede comune già dai tempi della Riforma con tutta la cultura religiosa della Germania del Nord, la Danimarca aveva avuto anch'essa l'esperienza dell'illuminismo, del romanticismo e dell'idealismo. Lo spirito del tempo in cui vive Kierkegaard è tenuto vivo con la filosofia di Hegel, rappresentanti noti del romanticismo hegeliano, Ludwig Heidelberg, che è il poeta, e Hans Martensen, teologo, professore e più tardi vescovo, e sarà quello con cui polemizzerà il nostro autore. Perciò la cultura dell'Ottocento e Danimarca si esprime in un dialogo tra cristianesimo romantico e idealismo. La personalità di Kierkegaard può essere caratterizzata da una parte da un'acuta e fredda riflessione filosofica e dall'altra da una personalità che si esplica, direi, in modo quasi femminile, è mosso da un pensare irrequieto che scava nel profondo. Però l'unità del suo filosofare è data in una apertura dell'esistenza che si fonda su Gesù Cristo. È melanconico come il padre, ma è animato da una pietà interna che non è borghese come quella del padre. E ciò lo porta a una ribellione col padre e con la religione del tempo. Anzi, la ribellione sfocia talvolta in disperazione nei confronti di Dio e di se stesso. Questo senso di malinconia, di disperazione, si rivela pure nel fidanzamento 1840, che scioglie presto 1841. Non è una questione esistenziale che riguarda solo il momento della sensibilità di Kierkegaard, ma è una questione che investe tutta la sua personalità filosofico-teologica. È un capitolo importante della sua vita e del suo pensiero. Con la rottura drammatica del fidanzamento con Regine, Kierkegaard si chiude la finestra verso l'esterno e la sua vita si consuma in un rapporto profondo tra se stesso e Dio. È scrittore, psicologo, filosofo e teologo, e uomo di chiesa. Ma non può sopportare la catena della gerarchia, perché si tratta di una realtà che è fuori dal rapporto interno uomo-Dio. Solo questo rapporto rende l'uomo autentico. È un pensatore protestante che mette sotto critica il protestantesimo. Come dice, cade a terra nell'ottobre del 1855 e muore poco dopo nel 1813, la sua vita che si chiude in breve periodo. L'anno prima aveva cominciato una furiosa battaglia con la chiesa ufficiale di Danimarca. Nelle sue numerose opere si possono distinguere i tre momenti, anche nel suo pensiero: il momento estetico, il momento etico e il momento religioso. Opere quelle pseudonime, opere seguite e pubblicate da lui stesso, e le carte che formano il famoso diario di cui parlava Minelli, che in Italia abbiamo avuto un enorme successo. Sono tre momenti, dicevo, che dove viene messo in luce il salto qualitativo, la categoria del salto è contro la mediazione di Hegel. Out e Out, una delle prime opere, tematizza lo stadio etico e quello etico. Si vive nell'immediato, che lo porta davanti alla crisi e alla disperazione. La salvezza arriva nello stadio successivo, etico. L'estetico è un momento spontaneo e l'etico invece è un momento di responsabilità. Il terzo passaggio, infine, è l'immersione nel divino, in Dio, precisamente nel Dio di cristianesimo. Timore e tremore è una delle opere fondamentali che ci portano, che ci aprono questo terzo periodo. Abramo mostra una forte religiosità, salta tutte le ragioni ovvie che dovrebbero spiegare il suo motivo, direi quasi patologico, di uccidere il proprio figlio. Di qui il problema del cristianesimo, dove l'incarnazione nella storia di Dio apre il tema filosofico di Lessing. Se è possibile provare una verità eterna a partire da un fatto storico, è un titolo di un libro che ha scritto anche Rizzacasa, cioè che mette in evidenza, direi, il fondamento di tutto quanto il pensiero di Kierkegaard. Quando si parla di Kierkegaard, si è soliti porlo vicino a Nietzsche, e ciò ha ragione, vivono nello stesso periodo, ma non si conoscono. La loro problematica mostra un'affinità di fondo su diversi punti, soprattutto nel rapporto critico col pensiero metafisico occidentale, e soprattutto con la critica al cristianesimo che si fonda su questo pensiero. In una annotazione, Kierkegaard dice che, come Pascal, egli non cerca il Dio dei filosofi, ma il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il Dio di filosofi non muta l'uomo, ma solo il Dio di Abramo può far questo. Lo stesso dirà, dice Nietzsche, quando parla delle verità che trasforma. Per lo più la critica ha messo in rapporto questi due pensatori, ma non ha messo in rapporto, direi invece, un altro pensatore che è fondamentale per capire questa problematica, e intendo Max Stirner. Stirner, il singolo di Kierkegaard e l'unico di Stirner, logicamente sono diversi, però hanno delle affinità di fondo, e questi sono alla base anche della problematica del pensiero di Nietzsche. E ancora meno la critica di Kierkegaard ha parlato del possibile rapporto che si può avere Kierkegaard con Meister Eckhart. Come Eckhart, il pensare dialettico di Kierkegaard si consuma nell'estrema solitudine della coscienza più profonda, dove c'è da una parte la coscienza e da una parte Dio. Eckhart parla di sentire rationis, che potrebbe essere anche una sintesi del pensiero di Kierkegaard. Sotto questo aspetto condivido il giudizio che dà Heidegger su Kierkegaard, e ciò anche se non del tutto. Heidegger dice che Kierkegaard è un pensatore religioso, ma non è un autore filosofico. Condivido il fatto che sia un pensatore religioso, ma contesto la seconda parte dell'affermazione di Heidegger, che cioè non sia un pensatore autentico. Le riflessioni religiose di Kierkegaard, come quelle di Eckhart, non coprono il sostrato profondamente filosofico che è alla base del loro pensare. Molto più sensibile al pensiero filosofico di Kierkegaard è invece Karl Jaspers. Lo riprende nelle sue opere teoretiche e dedica a Kierkegaard alcune conferenze. In particolar modo, Jaspers viene colpito dalla problematica di Giobbe come è stato posto davanti a Kierkegaard. Questa affinità viene trattato in questo convegno da relatore Cantillo. Kierkegaard, un po' più in particolare, verso la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, precisamente dal 1880 al 1930, gli storici della filosofia si trovano d'accordo nel caratterizzare un determinato modo di far filosofia come filosofia della vita. I rappresentanti più tipici sono Dilthey, Zimmer, Spengler e Klages. Alcuni interpreti pongono vicino a questi Schopenhauer e Nietzsche, e ciò anche se a mio avviso ha torto. Secondo questa prospettiva filosofica, la vita non viene considerata sotto aspetti secondari, ma nella sua espressione di principio. Se nel corso del pensiero occidentale erano stati considerati quale principio ultimo del filosofare la dimensione dell'essere, della natura e di Dio, nello stesso modo la filosofia della vita considera la realtà della vita come principio ultimo del filosofare. Tale modo di considerare la vita viene messo a fuoco innanzitutto in opposizione all'intelletto. Il principio della vita viene così chiarito in un orizzonte che è arazionale, per cui la filosofia della vita può essere considerata come metafisica non tanto dell'irrazionale ma dell'arazionale. Essa intende porre sotto problema tutto il razionalismo occidentale che culmina nel pensiero di Hegel. Proprio in opposizione a Hegel, che ne ha scritto Fenomenologia dello spirito, considera la vita come anticipazione dello spirito, Dilthey fa notare che la vita non è un modo deficiente dello spirito, ma piuttosto lo spirito deve essere considerato come una oggettivazione della vita. In tal modo viene superato l'ottimismo tipico del razionalismo hegeliano e adesso viene sostituita una dimensione dell'essere che può essere chiarita come tragica, anche se non direi tragica religiosa come per Kierkegaard. Tale problematica, che è all'inizio del Novecento di grande attualità, soprattutto in Germania, viene superato dall'esistenzialismo e in particolare dalla filosofia dell'esistenza. Questi movimenti culturali sostituiscono il principio della vita, quello dell'esistenza. Si può notare che vi è una certa gradualità tra filosofia della vita, esistenzialismo e filosofia dell'esistenza. Forse la filosofia della vita e l'esistenzialismo, la differenza non è così profonda come tra esistenzialismo e filosofia della vita. Infatti, nella concezione dell'esistenzialismo, la dimensione di esistenza viene presa per lo più come espressione del puro vivere. Di conseguenza, essa può essere posta sotto alcuni aspetti vicini alla problematica della vita, qualora ovviamente la vita non venga presa come semplice bios. Nella filosofia dell'esistenza, invece, la dimensione dell'esistenza viene considerata nel suo momento di autenticità solo se è aperta alla trascendenza. L'esistenza, di fronte alla trascendenza, è ben diversa dall'esistenza intesa come esistere tipico di alcune espressioni dell'esistenzialismo. A differenza quindi dell'esistenzialismo, dove si può parlare di dimensione eroica o di dimensione decadente del vivere, nella filosofia dell'esistenza si può parlare soltanto di esistenza autentica o di esistenza inautentica. In questa problematica, l'autenticità dell'esistere non implica un esistere eroico, ma dice soltanto l'essere aperti a, cioè aperti al proprio fondamento. Non si tratta di un agire sulle cose per dominarle, per imprimere il proprio sigillo, ma si tratta solo di mettere a fuoco il fondamento dell'essere dell'uomo, cioè del suo esistere, che è appunto la trascendenza. Esistenza e trascendenza sono i due poli attorno ai quali ruotano le riflessioni di un tale filosofare. Ma parlare dei due poli come esistenza e trascendenza significa parlare di una dimensione di esistenza che come tale è possibilità. Questo è importante. Esistenza come possibilità, che è la base di Kierkegaard, di Nietzsche, anzi di continua possibilità. L'esistenza come possibilità sintetizza appunto il filosofare di questi due grandi filosofi. E ciò anche se per quanto riguarda Nietzsche, alcuni interpreti lo pongono tra i filosofi della vita o tra gli esistenzialisti. Nietzsche e Kierkegaard vivono nello stesso periodo e possono essere considerati alla base di due grandi pensatori del Novecento, Heidegger e Jaspers. Ciò significa che Heidegger e Jaspers non possono essere compresi se non si tiene presente il filosofare di Nietzsche e di Kierkegaard. Di più, questi filosofi di esistenza, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger e Jaspers, sono alla base di un nuovo pensiero teologico che può essere delineato, a mio avviso, come teologia dell'esistenza. I principali rappresentanti possono essere Barthes, Bultmann, Gogart, Tillich e Bonhoeffer. Questi filosofi e teologi dell'esistenza hanno in comune, quei filosofi della tradizione metafisica, il fatto che si muovono di continuo attorno al fondamento dell'esistere, e ciò anche se essi non considerano il fondamento dell'esistenza al di fuori dello stesso esistere, come è proprio dei pensatori metafisici. E se quindi il fondamento dell'esistere è visto come divino, come Dio, tale divino Dio deve essere messo in luce appunto nell'esistenza stessa dell'uomo. E ciò significa calare il divino nella finitezza dell'uomo. Se si dice che l'esistenza è possibilità, il divino stesso viene messo a fuoco nel contesto, solo nel contesto di tale possibilità esistenziale. Nel contesto di tale possibilità, il momento del tempo si rivela come lo stesso momento dell'eterno, senza però che tale eterno pretenda assurgere a realtà indipendente dal tempo. Non si può andare oltre all'esistere come possibilità, ma tale esistere appunto è appunto un concreto esistere, e che significa che non si parla dell'esistenza dell'uomo come concetto, ma del concreto esistere del singolo uomo. Sia Nietzsche che Kierkegaard, e quindi i discepoli Heidegger e Jaspers, si ritrovano proprio in questa categoria del singolo, dove eternità e tempo si incrociano. La categoria del singolo, o meglio l'esistenziale del singolo, è fondamentale nel pensare di Kierkegaard. Egli parla più precisamente di quel singolo. In una pagina del diario del 47 si legge che la categoria del singolo è così, tra virgolette, legata al mio nome, che io vorrei che sulla mia tomba si scrivesse quel singolo. Il singolo è sintesi di corpo e anima, di tempo ed eternità. Tra le varie possibilità di vita offerte dall'esistenza, il singolo realizza in fondo solo se stesso. Nelle introduzioni ai quattro discorsi edificanti dice esplicitamente di rivolgersi all'unico, e che ciò che è scritto da un unico, ma ciò non implica che il concetto di singolarità in rapporto ai molti, ma è una riflessione che riguarda, che anzi costituisce l'essenza dell'uomo. Solo nella singolarità si può avere la verità dell'uomo e assieme alla verità la responsabilità. La massa è come tale chiusa nella non verità e nella non responsabilità. Se nel singolo soltanto si ha l'apertura alla verità, l'apertura alla responsabilità, si può vedere come solo nel singolo si abbia l'apertura al divino, anzi si ha l'apertura al Dio del cristianesimo. Anzi, in realtà, di Dio Cristo uomo si apre solo nel singolo. Il cristianesimo è solo la storia della realtà del singolo. Ciò non sembra del tutto ovvio se si pensa a un'altra categoria del singolo, come quella abbiamo detto prima di Stirner. Pure questi vive nella metà, seconda metà di Ottocento, e per alcuni decenni prima di Nietzsche, ed è anzi un pensatore cui Nietzsche deve moltissimo. L'opera di Stirner del 44, l'unico, è la sua proprietà. Pure Stirner parla del singolo, dell'io, della verità come soggettività. Ecco, direi, sottolineerei questo, che non solamente Kierkegaard, perché tutti gli studiosi, la maggior parte degli studiosi di Kierkegaard sottolineano la soggettività, direi che la parola soggettività, cioè soggettività e soggettività, perché anche Stirner parla di soggettività, per questo faccio questo raffronto, per chiarire Kierkegaard. Pure Stirner, come Kierkegaard, mette a fuoco l'io in polemica col mondo concettuale di Hegel. Stirner parla di io che recupera la sua essenza più profonda a mano che si libera dai concetti che sono in fondo sue creazioni. Il mondo di concetti e quindi delle verità concettuali rappresenta l'estraniazione stessa dell'io e perciò mostra il momento della non verità. Via via che viene superata questa estraniazione, l'io si ritrova come ego, come essere se stesso. Solo in questo contesto si può parlare di verità e di esistenza autentica. Però questo io non si apre a Dio, è chiaro. Ma la dimensione dell'io di Stirner è priva di uno spessore ontologico. Si parla di autenticità dell'io solo nell'atto di superare l'estraniazione dei concetti. In tal modo l'io come ego, come egoismo, si trova di fronte al nulla, inteso come semplice nulla, oppure come l'entità del niente. L'esistenza non riesce a rendersi conto dei limiti di tale procedimento condotto con l'intelletto conoscente e quindi non riesce a rendersi conto della possibilità di una trascendenza, ovviamente non tanto a livello metafisico quanto, come si è detto, a livello esistenziale. Ed è proprio la trascendenza a livello esistenziale che ci porta di fronte a una realtà eterna che si dischiude nel tempo. Questo è il passo che farà Nietzsche, ma che farà soprattutto Kierkegaard. Questo passaggio ci porta di fronte al superamento del nulla di senso che diventa un nulla positivo. Se Nietzsche segue in certo modo Stirner quando questi parla del singolo che si trova nel mondo come gettato, anzi come un dado che viene gettato, è ovvio che l'unico senso dell'esistere si apre a Stirner e a Nietzsche nell'orizzonte di una trascendenza esistenziale dove il tempo si apre a un non tempo o eternità. Diversa invece la posizione dell'esistere del singolo tipico di Kierkegaard. Chiedo scusa perché ho fatto queste raffonte per approfondire il momento di Kierkegaard. L'esistenza di Kierkegaard è un esistenziale intrinsecamente religioso, a differenza di quello di Nietzsche e di quello di Stirner. L'io non si trova gettato nel mondo, ma ha la coscienza di essere di fronte a Dio. Se si apre tra l'altro a Malattia mortale, eccetera, che tra le ultime opere di Kierkegaard, si legge nella seconda parte dell'io che come tale è di fronte a Dio, anzi definisce questo io con l'espressione di io teologico, ma esprime subito il timore di essere frainteso e sottolinea che si tratta di un io umano che non è cui misura è Dio. Sotto questo aspetto l'esistenziale della disperazione trova la sua radice nella coscienza del peccato. Ogni peccato è davanti a Dio, ma nell'orizzonte esistenziale del singolo unico di Stirner non ha senso parlare di peccato, poiché si tratta di un io che è intrinsecamente non teologico, nel senso di non religioso. E quindi non si può parlare nemmeno di disperazione, poiché certamente parlando questo sorge della coscienza del peccato che dice a sua volta la lontananza da Dio e questa a sua volta esprime l'estraniazione del proprio fondamento. Sempre in questa seconda parte si trova un'osservazione che ritengo fondamentale. Kierkegaard scrive che l'essere davanti a Dio implica il criterio decisivo della religione cristiana, cioè l'assurdo, il paradosso, la possibilità dello scandalo. Ma ciò che è singolare in filosofare di Kierkegaard è il fatto che la realtà di tale scandalo, di tale assurdo, di tale paradosso, non è di natura teologica nel senso tradizionale del termine. Ecco, io vorrei, cioè, Kierkegaard si muove davanti a Dio, però questo scandalo e questo assurdo non è del tutto teologico, ma è di natura strettamente filosofica. Può sorgere grazie a una riflessione religiosa, ma si capovolge in una dimensione filosofica. Il paradosso consiste appunto nel fatto che all'origine del filosofare, il singolo uomo, è davanti a Dio. Ma Kierkegaard osserva che questa idea non entra mai in testa alla speculazione, la propria speculazione indica quella hegeliana, la quale non può universalizzare fantasticamente i singoli uomini nel genere. Lo scandalo presenta quindi la realtà del singolo davanti a Dio, ma questo rapporto supera i confini del puro conoscere, di cui la posizione ambigua di Kierkegaard nei confronti del pensare di Socrate. Il cristianesimo fa un passo da gigante nella coscienza del sapere, lanciandosi nell'assurdo. Nella coscienza dell'assurdo incomincia il cristianesimo, lo scandalo. Si capisce perché Kierkegaard dica che è meschino, è una cosa meschina, che la religione cristiana debba essere salvata da una apologia. Egli fa ancora notare che colui che per primo scopre di dover difendere il cristianesimo nel mondo cristiano è di fatto un secondo Giuda, dato che anche lui tradisce con bacio, anche se il suo tradimento è solo un tradimento di stupidità. Kierkegaard ci tiene a far presente che il peccato del singolo davanti a Dio non è un peccato come ignoranza di cui parla Socrate. Questa definizione socratica è genuinamente greca, cioè è tipica di una speculazione che secondo Kierkegaard riguarda il pensiero greco e in particolare poi in seguito quello hegeliano. Kierkegaard osserva ancora che in tale contesto che il segreto di tale speculazione per quanto riguarda il problema del comprendere consiste nel fatto che procede senza punto fermo. Questo è importante, c'è questa espressione. Cioè procede quindi come uno che cuce senza fare un nodo al filo. Perciò può continuamente cucire senza fine. Il cristianesimo invece ferma il filo, fa il nodo, e questo nodo è il paradosso. Quindi il paradosso salda il filo logico del conoscere davanti a Dio. Se il cogito ergo sum della filosofia moderna dice che pensare è essere, nell'ambito invece del paradosso cristiano si dice che tu sei nella misura in cui credi. Quindi credere è essere. E allora il peccato è tale quando ci si allontana da questo paradosso del credere. E invece si supera questo quando ci si abbandona a questo paradosso. Se il cristianesimo è tale paradosso, tale scandalo, non ha senso volerlo cercare di capirlo. Esso deve essere soltanto creduto. Il credere in tal caso presuppone sempre il paradosso, quindi l'impossibilità di conoscere. Sorge quindi nel terreno socratico di sapere, di non sapere. Ma in tal caso il paradosso non è espressione di ciò che è irrazionale, ma è piuttosto espressione del limite di ciò che è razionale. E a sua volta la coscienza di tale limite si rivela un approfondimento stesso della razionalità. Cioè è un limite del conoscere, ma questo limite si rivela come un approfondimento del conoscere stesso. In tal modo il paradosso è intrinseco a una nuova dimensione di ragione che supera quella del puro conoscere di stile socratico, o se si vuole supera la sapienza greca e quella hegeliana. Non si tratta solo di avere coscienza di conoscere, di non conoscere, ma si tratta di una coscienza di leggere e conoscere alla luce di un esistere davanti a Dio. Il primo conoscere rimane fermo nel conoscere l'ambito dell'oggetto. Il secondo conoscere implica invece un salto verso ciò che non è e non può essere oggetto. Il peccato è quindi qualche cosa di positivo, ma filosoficamente positivo, e ciò non nel senso di poter essere capito, ma come paradosso che deve essere creduto. Perciò i momenti del paradosso e della fede sono alla base di ciò che rappresenta la differenza di fondo tra Dio e uomo. Cioè, affinché Dio e uomo non si fondano nel sistema in senso filosofico poetico, come si constata nel paganesimo, dice Kierkegaard, c'è bisogno di questo paradosso. La dottrina del peccato, osserva ancora Kierkegaard, secondo la quale tu ed io siamo peccatori, coscienza che disgrega la massa, stabilisce una differenza qualitativa tra Dio e uomo, così profonda come non è mai esistita. Lo scandalo si riferisce al singolo, e qui incomincia il cristianesimo, grazie alla coscienza del peccato. Ogni uomo si trova davanti a Dio. La dottrina del cristianesimo è la dottrina del Dio uomo e quindi la dottrina dell'affinità tra Dio e uomo, è la possibilità dello scandalo, è la garanzia con la quale Dio si sente sicuro che l'uomo non gli si possa avvicinare troppo. Direi che è il momento più importante, perché affinché la dimensione del conoscere non si possa impadronire di Dio come fosse un oggetto. Se nella speculazione greca, in quella hegeliana, l'uomo è aperto alla tentazione di impadronirsi di Dio con le categorie dell'intelletto conoscente, nel pensiero cristiano, che si fonda nella coscienza del peccato e quindi dello scandalo, si supera tale tentazione faustiana. Nella fede, la possibilità dello scandalo si mostra come il momento dialettico. Nel rapporto io e Dio non c'è alcuna mediazione concettuale. La ragione e la fede non si lasciano mediare. Questa forma di esistenza che non si può mediare ma solo attuare è appunto l'esistere come paradosso. Il paradosso consiste nel fatto che il singolo si ponga in rapporto con l'assoluto solo come singolo. E ciò è possibile appunto nella coscienza di un esistere come peccato. È un paradosso che il singolo come tale si trovi in un rapporto assoluto, cioè senza mediazione concettuale con l'assoluto stesso. La dialettica esistenziale di Kierkegaard, dove il singolo si trova di fronte a Dio senza mediazione concettuale, implica la critica alla dialettica hegeliana. L'esistenza soggettiva del singolo e non il concetto diventa determinante per aprirsi a Dio. Quanto più il singolo penetra nella sua coscienza interiore, tanto più si avvicina a Dio. La dialettica esistenziale è dialettica della interiorizzazione, della differenza qualitativa, di un cadere nella spiaggia di un paradosso. Se viene meno il riferimento al concetto, alla legge, si vede come in Kierkegaard non siano dialettici l'etica e la dogmatica, ma l'ethos e la religione. La dialettica esistenziale di Kierkegaard implica un pensare esistente soggettivo rispetto al pensiero oggettivo, o che è lo stesso alla scienza, che è oggettiva, dove domina la categoria oggettiva della logica. Il pensiero esistente soggettivo si riferisce solo alla soggettività. Le questioni etiche e religiose, che si riferiscono a determinate leggi oggettive, lasciano il terreno all'esistenza del singolo, che intende vivere in modo etico e religioso al di fuori delle leggi oggettive. La critica al pensiero oggettivo, che si fonda sulle categorie logiche, non riguarda solo il pensiero hegeliano, ma investe pure la tradizionale ortodossia della Chiesa, che è per Kierkegaard un modo nuovo di paganesimo. Il cristianesimo non è dottrina che si fonda appunto sui concetti, logos, ma è una mediazione di esistenza. Si tratta di un esistere soggettivo che si sente in colpa davanti a Dio. L'ortodossia della Chiesa viene definita da Kierkegaard come ortodossia mitica. Perciò quando Kierkegaard dice la nota espressione che la soggettività è la verità, intende alludere all'esistenza del singolo che è nella sua profonda interiorità davanti a Dio grazie alla coscienza del peccato. In questo contesto si può parlare di fede. La fede non è un conoscere più o meno oggettivo, essa è un vivere l'antinomia del rapporto dell'uomo singolo davanti a Dio. Ma in tal caso la fede fa l'uomo autentico uomo. Così pure la verità del cristianesimo non è in una dimensione oggettiva, ma nella soggettività dell'esistere del singolo che si decide per Cristo, cioè si decide di essere cristiano. Parlare di peccato e di perdono nel senso etico-religioso non ha senso, la fede è al di fuori di ogni possibile possesso dell'uomo. Quel sentimento di dipendenza di cui parla Schleiermacher, di cui si rifà Kierkegaard, viene visto da Kierkegaard come coscienza di un non conoscere oggettivo rispetto a Dio. Il rapporto soggettivo uomo-Dio avviene grazie alla dimensione del momento, della decisione del momento, grazie alla quale l'eternità si cala nel tempo. Di qui la verità del paradosso di cui si è parlato. Il paradosso implica due aspetti: quello che riguarda l'impossibilità del conoscere davanti a Dio e quello che riguarda il rivivere, il calarsi dell'eterno nel tempo. Ma il paradosso della non possibile conoscenza di Dio in rapporto alla presenza di Dio che si apre nel contesto di Gesù Cristo che si cala nel tempo, comporta, a mio avviso, la centralità della problematica della secolarizzazione. Ogni immagine di Dio deve essere portata al suo limite di fondo, dato che non è possibile conoscere Dio con categorie intellettuali. Ma questo limite che viene superato si cristallizza inevitabilmente in un nuovo oggetto. Di qui la forza della secolarizzazione che diventa movimento necessario per superare questo pericolo di oggettivazione. Quindi Dio diventa la più profonda passione dell'intelletto e allo stesso tempo diventa la coscienza del suo tramonto. Questo necessario movimento dialettico è ciò che si può dire la secolarizzazione in senso positivo. In tal caso il paradosso si trova sul piano di questa secolarizzazione. Se il paradosso cristiano ci parla di Dio che diventa uomo in Gesù Cristo, tale paradosso ci parla pure dell'annientamento di ogni pensare, che cerca di penetrare tale paradosso. La proposizione che Gesù Cristo è autentico Dio in quanto è autentico uomo è ovviamente paradossale, ma in questo paradosso si può scorgere una nuova profondità dello stesso pensare come un pensare oggettivo. Ci tengo a sottolineare che il paradosso è una cifra schiettamente filosofica, questa direi è la tesi, anche se viene messa in luce sullo sfondo della problematica religiosa. Gesù Cristo è un Dio che si fa uomo. C'è quindi il calarsi dell'eternità nel tempo, che è un problema di fondo di Nietzsche, un problema filosofico. Il momento deve consumare questa decisione. Ma tale paradosso non viene superato, non viene eliminato, ma rimane come sfondo del suo filosofare. Questo è importante. Se ad esempio Zenone di Elea si sforza di superare i paradossi che ha costruito, per cui può essere considerato il fondatore della logica formale. E se la moderna filosofia della matematica si sforza di chiarire i paradossi dell'infinito, Kierkegaard vede nel paradosso qualche cosa di positivo e determinatamente filosofico. Esso porta il singolo a decidersi per un contenuto di fede che è determinante per il pensare e pure per l'agire. Il paradosso unisce teoria e prassi e cerca di eliminare dalla filosofia tradizionale ogni dimensione di estraniazione. Il paradosso porta l'uomo di fronte a se stesso e lo porta di continuo di fronte alla sua responsabilità. La responsabilità non è della legge, sia questa dello Stato o la legge della Chiesa, ma la sua radice, la cui radice è nel pensiero astratto, ma è solo nel singolo individuo, quando riesce a superare i più diversi rapporti con gli enti. Perciò, invece di superare razionalmente i paradossi, Kierkegaard cerca proprio, con l'aiuto del paradosso, di portare la razionalità di fronte ai suoi confini. Spiega la razionalità del paradosso in modo più profondo, in modo tale che la razionalità diventi razionalità più profonda. Il paradosso ci dice che l'oggetto della razionalità non può essere qualcosa di oggettivo oppure di rappresentato, perché in tal modo il processo della ragione diventerebbe natura. Il paradosso viene messo a fuoco proprio nel rapporto soggetto-oggetto, e in tale rapporto la soggettività del soggetto e l'oggettività dell'oggetto si incontrano dialetticamente in una spiaggia del non essere dove sorge il momento della disperazione. Si tratta di disperazione che affonda le sue radici proprio in terreno filosofico. Il paradosso è quindi estremamente filosofico perché ci porta di fronte al problema socratico, problema che aveva tormentato Nietzsche soprattutto nella sua prima opera. Mi soffermo in questo pensiero. Secondo Kierkegaard, postilla conclusiva, non scientifica, eccetera, e Klimakov fa presente che il principio di Socrate non è in fondo adeguato all'esistenza, che è l'unica realtà che giustifica il filosofare. Climaco spiega in modo tradizionale che la verità è conformità di pensiero ed essere. E gli si chiede se questa conformità sia possibile. E risponde che è possibile solo laddove l'essere è un essere astratto. D'altra parte Hegel può parlare non solo di conformità come realismo di Tommaso d'Aquino, ma pure di identità tra pensiero ed essere, solo per l'ovvia ragione che il suo concetto di essere è del tutto slegato dall'esistenza. Ed Hegel definisce questo rapporto con la verità come rapporto oggettivo. Ma Kierkegaard obietta che chi si pone la questione sulla verità in senso oggettivo è costretto a riflettere sulla verità in senso oggettivo come fosse un oggetto rispetto al quale si rapporta il soggetto che conosce. Cioè non si riflette sul rapporto, ma sul fatto che la verità è la linea direttiva a cui ci si rapporta. Cioè vorrei sottolineare, cioè, non si riflette sul rapporto soggetto-oggetto, no? Ma si riflette solo su questa verità cui noi andiamo incontro. Ma in tal caso colui che pensa sparisce nell'oggetto. In altre parole, la trasparenza del pensare cade nell'oggetto e non nel soggetto che pensa. Ma questa impostazione si addice a Hegel, che si stacca dal soggetto che giudica e previene alla cosa stessa, che sarebbe per lui l'unico pensiero dello spirito assoluto, dove il pensante come realtà empirica non viene tematizzato. La verità è vista idealmente nella direzione dell'oggetto, ma non è vista come rapporto reale tra la verità come ciò che deve essere ricercata e colui che la ricerca. Cioè io sottolineo soprattutto questa dimensione di rapporto. In tal caso la questione riguarderebbe il rapporto stesso, cioè riguarderebbe il pensante nella sua unicità empirica, in quanto si pone in rapporto con la verità. Climaco pone di fronte alla verità oggettiva, si pone di fronte alla verità dove sparisce la linea di confine tra colui che cerca e la verità stessa. La verità è soggettiva, ma non si può capire a fondo questa verità soggettiva di Kierkegaard se non la si proietta nel suo orizzonte fondante che è dato solo dal rapporto, altrimenti sarebbe il pericolo di un immanentismo. Di qui, a mio avviso, l'affinità di fondo con la rivolta esistenziale di Stirner. Questa si distingue dalla rivoluzione di Marx e da qualsiasi altra rivoluzione per il fatto che il momento fondante non è oggettivo. Non si riguarda l'oggetto che cambia la società, una o l'altra società, ma si guarda solo l'atto rispetto, l'atto del cambiare. La dinamicità intrinseca della rivolta esistenziale, che consiste nel fatto che essa rimane sempre sospesa tra il momento soggettivo e il momento oggettivo di ciò che cambia, ma lascia da parte tale confronto con Stirner e ritorna al rapporto della verità soggettiva di Kierkegaard. In questo contesto il pensare soggettivo mostra una duplice dimensione di rapporto del soggetto pensante da una parte verso ciò che è oggettivo e dall'altra verso se stesso, che apre la questione su ciò che è oggettivo. Non è perciò esatto dire che il pensatore soggettivo rimane il prigioniero di se stesso, sarebbe immanentismo, appunto perché non abbandona mai il riferimento alla dimensione oggettiva. Questo è il punto fondamentale. Cioè il pensatore soggettivo, quello cioè che non abbandona la realtà del paradosso, non vede tanto la conformatio e neppure consuma l'identità pensare essere alla Hegel, ma egli si rende conto piuttosto del fatto che non può mai pervenire a ciò che è oggettivo come fondamento ultimo della verità. Non può mai pervenire a ciò che è il momento oggettivo della verità, perché secondo Climaco è un ente empirico. Come tale non può mai pervenire a ciò che è assoluto, infinito. Ma allora, rispetto a questa situazione, non rimane altro al pensatore soggettivo che un tendere verso la verità. Questo è importante, quindi questo si elimina la rivolta. e quindi il rapporto, un tendere verso la verità. Secondo Climaco, se l'unica verità che l'esistente può raggiungere nel difficile equilibrio del rapporto che è la base del paradosso è solo nel tendere, si deve dire che la verità oggettiva non è il fine immediato. Il fine immediato è solo il tendere. Il tendere mostra l'unica possibilità secondo la quale l'uomo può essere nella verità. Climaco mette a fuoco il problema in modo più concreto. Quando parla del rapporto, non con la verità in generale, ma con la verità a Dio. Colui che conosce nel senso oggettivo del pensare, prescinde da se stesso e intende solo una astratta realtà di Dio. Ma colui che conosce in modo soggettivo, riflette su se stesso come colui che vuole conoscere Dio. In altre parole, il problema si pone nei termini tipici del tema di Lessing quando ci si chiede se un essere finito può conoscere Dio. La risposta di Climaco è, come ovvio, negativa. Ma se non posso conoscere Dio, posso tendere, ecco appunto, alla sua conoscenza. Perciò l'unico rapporto possibile con Dio è dato solo dal tendere. Si parla di passione per ciò che è infinito. Anzi, questa passione sarebbe ciò che è decisivo e non già il contenuto di essa. Anzi, il contenuto della passione non sarebbe altro che la passione. Ora, si può capire meglio la questione di Socrate. Climaco si rende conto che Socrate ha visto questo tendere come il senso della sua vita filosofica. Sa che come uomo non può pervenire alla verità oggettiva e che quindi non rimane altro che interiorizzarsi. Nel sapere come non sapere oggettivo, Socrate apre un orizzonte che non è di nessuno. C'è in questo la coscienza che da una parte c'è Dio che solo sa e dall'altra c'è l'uomo che non sa. La coscienza di sapere, di non sapere, lo soddisfa, lo rende quieto. Ma Kierkegaard? No, Kierkegaard ama Socrate, ma il suo amore è diviso. Da una parte sa che Socrate di fronte a Hegel, e così di fronte a un pensatore che abbraccia l'ontologia razionale, sottolinea in modo indefinito l'uomo, e qua va bene. D'altra parte però sa contemporaneamente che Socrate è colui che prepara la direzione cui va questa ontologia speculativa da Platone a Hegel. Socrate non è responsabile né di Platone né di Hegel, però preparando questa via è responsabile in modo indiretto. E allora bisogna tagliare anche questa via. Socrate però si ferma di fronte a questa ontologia speculativa, non commette questo peccato. Ma d'altra parte questo fermarsi non è intrinsecamente necessario nella filosofia di Socrate. Socrate si rende conto che il cammino verso la trascendenza, che culmina nel superamento del tempo per l'eterno, sarà via via battuto. Quindi l'appunto negativo che si può fare a Socrate è che egli ha aperto la via verso la speculazione dell'ontologia razionale, quindi verso il cristianesimo tipico e verso la trascendenza, anche se non la percorre. E ciò in quanto sa che l'uomo è autentico solo se riesce a portare a compimento questo tendere verso l'eterno, verso il definito. Sotto quest'angolo visivo Socrate e Hegel si trovano, secondo Kierkegaard, nello stesso terreno. La differenza rimane, come si è detto, nel fatto che se per Hegel l'uomo singolo viene superato in un'identità, essere eccetera, per Socrate l'eterno rimane qualcosa che non è possibile raggiungere. Ma la via, l'iter direttiva verso l'eterno è comune a tutti e due, a Socrate e alla speculazione ontologica, cioè è in comune la fiducia, questo è importante, la fiducia di battere questo cammino speculativo fino in fondo. Non si tratta di speranza senza speranza, ma veramente di fiducia. Questo è il problema che sarà presente in Nietzsche nella prima in attuale contro il teologo Davide Strauss. Per Climaco, Socrate prende le distanze da un pensare come quello platonico, dove il ricordarsi, eccetera, è un continuo, un momento che apre alla fine il piano della verità. Socrate sottolinea i limiti dell'esistere e perciò, dice Kierkegaard, non percorre fino in fondo questo iter. Kierkegaard supera invece definitivamente Socrate e lo supera proprio quel paradosso. Questo ha luogo nella fede cristiana. Quindi la fede cristiana ha il suo risvolto filosofico. Chi non si mette in questa dimensione filosofica del paradosso cade indietro praticamente in una dimensione di fede, quindi pagana, prima di quella cristiana. Cioè il fenomeno della fede cristiana, dove Cristo è uomo e Dio a un tempo, cioè che l'eternità nel tempo, il tema di Lessing, c'è la dimensione dell'assurdo e del paradosso. L'assurdo è l'aspetto della fede, ma è ad un tempo l'aspetto della finitezza del conoscere. C'è un taglio netto quel problema a Socrate. Questi, sottolineo ancora perché per me è importantissimo, questi apre la via a un pensare verso l'Eterno, e anche se si ferma, mostrando la finitezza del conoscere, lascia aperto però il tendere all'Eterno. Con Kierkegaard si taglia pure questa porta del tendere all'Eterno, del tendere alla trascendenza come meta, e rimane solo la finitezza. L'esistenza è intrinsecamente finitezza. La verità in sé trascendente è impossibile. Essa si chiude solo nel cerchio del tempo dell'uomo, ma questo chiudersi della verità nell'uomo esprime appunto questa realtà del paradosso. In tal modo l'esistenza non poteva essere sottolineata in modo più profondo. Quel paradosso si rende impossibile il movimento verso la trascendenza, non però nel senso esistenziale, ma nel senso speculativo. Rimane aperto sempre il movimento esistenziale, che supera la realtà fondata sul principio di non contraddizione. Ma questa radicale rottura con la verità, eterna, trascendenza, trascendente, è peccato. Così, l'esistenza ha la sua radice più profonda nel peccato. Ma questo non è inteso in senso etico, ma ontologico. Così, se ritorno nei confronti, quel confronto con Stirner, si può dire che Stirner dice che l'uomo, cioè lo dice Stirner, non si può dire, che l'uomo si trova gettato nel mondo come un dado, espressione che dopo Heidegger lascia dado e dice solo si trova gettato. E proprio questa è la sua verità originaria per Stirner. Kierkegaard può dire lo stesso, che l'uomo si trova nel mondo gettato, ma non come un dado, ma gettato nella coscienza di essere in colpa. È un peccato ontologico che è all'origine del suo essere gettato, ma ciò non toglie che si tratti pur sempre di un essere gettato, finita di fondo. Si deve far presente che non è già l'uomo, ma è Dio stesso che mostra all'uomo il suo essere gettato. E in tal modo, quindi non c'entra più Socrate, e in tal modo il suo essere diviso dall'Eterno, l'essere gettato da Dio, rappresenta la colpa sua originaria, ma rappresenta pure il legame ultimo dell'uomo con Dio, colpa e legame. Dio mostra all'uomo questo suo tendere alla verità e allo stesso tempo mostra tale impossibilità di non pervenire mai, ma di rimanere sempre nel tendere. E in ciò si mostra la sua finitezza assoluta. Dio, inteso nel cristianesimo come Gesù Cristo, diventa la cifra vivente e storica di questo tragico evento dell'uomo che si sente schiacciato da Dio. Il grido della sua disperazione, non si può mai dimenticare che per chi che vuole disperazione è fondamentale, l'angoscia, il grido della sua disperazione viene in certo modo attutito quando si rende conto di questo suo essere schiacciato. Gesù Cristo, nel chiudere la verità oggettiva verso la speculazione che tende alla trascendenza, apre quel paradosso, il nuovo modo di vedere la verità. Questa non è frutto del tendere dell'uomo, ma entra nell'uomo. Ma tale entrare della verità è piuttosto un venire incontro all'uomo quando è aperto nella coscienza del paradosso. Così Dio, come esistenza non finita, entra nel tempo quando l'uomo, nella sua concretezza, taglia bruscamente il cammino verso l'Eterno. Questo è il senso del paradosso ed è ad un tempo il senso della fede. Allora, che cos'è la fede? La fede è la passione per l'assurdo e per il paradosso. Non solo la fede cristiana, ma lo stesso pensiero è la passione per l'assurdo e per paradossi. Io voglio sempre mettere vicino la fede cristiana e il pensiero, un nuovo modo di pensare, di cui l'intrinseca affinità tra fede e pensare. Più tardi Jaspers parlerà di fede filosofica, che è quel filosofare che porterà l'esistenza concreta del singolo di fronte alla trascendenza, e che significa di fronte ai confini intrinseci del conoscere. La fede filosofica di Jaspers o può essere considerato, il paradosso di chi credo secolarizzato. Ma tale secolarizzazione non è, a mio avviso, negativa, ma è positiva, in quanto può aprire un colloquio non solo con la fede cristiana, ma con ogni fede filosofica. Il suo il senso ultimo della comunicazione dice appunto questa unità ultima. Io ringrazio a nome vostro il professor Penzo per questa impegnata ricerca di cui ci ha fatto parte.